Salve a tutti, da Bernardo Parrella, dagli Stati Uniti, per stavolta darvi una breve anteprima di quelli che sono gli articoli più interessanti presenti sul numero di novembre 2006 di Wired Magazine e quindi disponibili in edicola la prossima settimana negli Stati Uniti e poi anche online con calma. Stavolta la cover story, diciamolo subito, ci interessa poco, per cui interessa poco il mondo digitale sicuramente. Si intitola The New Atheism, No Heaven, No Hell, No Just Science. Per cui la saltiamo a più pari, per arrivare invece ad alcuni articoli un po' più consoni ai navigatori online, a chi si occupa di digitale, partendo dall'attacco dei bots, l'ultima minaccia alla rete, programmi di software autonomo che uniscono le forze per perpetrare frodi, spionaggio e altre attività criminali su larga scala. In pratica l'articolo firmato da Scott Berinato si occupa appunto di questi, dei vari bot automatici che ormai prendono d'attacco per vari motivi, o siti o blog o cose di questo tipo, ed è che tutto sommato, da quello che si deduce dalla storia, diventa impossibile bloccare. Si parte per esempio raccontando gli attacchi che Six Apart aveva scoperto in un suo blog gestito da un'azienda di sicurezza, Blue Security, che era basata in Israele. I vari attacchi, dopo aver bloccato il blog, il sito di Blue Security, i bot si sono diretti proprio contro Six Apart, contro i server di Six Apart completamente, quindi creando una serie di problemi. Questo recentemente, soltanto infatti, l'attacco ha disabilitato due dei provider dell'azienda parzialmente. Ma questo appunto è un esempio, nell'articolo viene citato come esempio per spiegare come il mercato dei bot oggi sia come il commercio della droga: esistono produttori, rivenditori, clienti con vari livelli di interesse e di coinvolgimento in diverse attività criminali. E quindi per il futuro ci sarà da aspettare un incremento, dovremmo aspettarci un incremento di questo tipo di attività e anche una guerra tra bande, tra mafie. Infatti si legge anche più avanti che eravamo soliti definire Internet una specie di Wild West, il famoso Far West, diversi anni fa, ai suoi inizi. Oggi è più come la Chicago degli anni 1920, con Al Capone e varie altre bande che si contendono al mercato criminale. Quindi, sempre meglio stare in campana il più possibile, per quanto possiamo, anche noi utenti. Dall'altra parte c'è da tenere conto dello sviluppo dei mercati di nicchia. Come è noto, anche questo caratteristica importante della rete, è suddivisione in piccoli spazi con target ridotto, ma che interessano persone qualificate. Ebbene, ci spiega Clive Shirky, noto blogger e intellettuale online, che è giunta l'ora delle mega nicchie, ora che un milione, scusate, no, un bilione, ovvero un miliardo di persone sono online, anche i siti che mirano a una piccola fetta del pubblico del web possono attirare folle enormi. Quindi Shirky ci spiega brevemente che un decennio fa, quando si raggiungeva un decimo dell'1% degli utenti web, si toccavano circa 36.000 persone, un numero che oggi è cresciuto esponenzialmente fino a cifre di 2,9 milioni di utenti unici, visitatori unici per siti come beliefnet.com, che si occupa di fede e religione, o anche 3,8 milioni di persone uniche, visitatori unici per Snopes.com, che si occupa di miti urbani, anzi di smitizzare i miti urbani, se così possiamo dire. E la conclusione di Shirky è che nel prossimo futuro, di fianco al mainstream e alle pressioni competitive del mercato, online continueremo ad avere migliaia di siti che interesseranno un pubblico che va dalle centinaia di migliaia ai milioni di persone. E quindi dovremo prepararci all'era del small as big, ovvero le nicchie diventeranno mega nicchie. Un altro articolo interessante è in realtà l'estratto da un libro che sta per uscire qui negli Stati Uniti, dedicato al famoso iPod della Apple. Si intitola, libro ed articolo, The Perfect Thing, la cosa perfetta. E Steven Levy, noto giornalista tecnologo, ci racconta un po' nei dettagli i primi passi del progetto iPod, le riunioni con Steve Jobs, le idee dei tecnici e i piccoli modellini fatti di cartone e cose di questo tipo, per arrivare a dire, almeno questo estratto che c'è su Wired, come il successo dell'iPod sia dovuto alla combinazione di tre elementi portentosi, ovvero l'incredibile tecnologia, la leggendaria facilità di uso e l'incredibile design che tutte e tre sono elementi tipici della Apple e hanno portato al gran successo di questo iPod, per il quale, perché il libro esce appunto nel momento in cui si arriva al quinto anniversario, al quinto compleanno dell'iPod in questi giorni. E infine un'ultima segnalazione spetta alla rubrica sempre interessante in cui, di Lawrence Lessig, in cui stavolta Lessig fa pressione in certo senso sui parlamentari statunitensi, perché ascoltino molto di più il pubblico, le associazioni di interesse pubblico e non diano retta ai gruppi di interesse privato, come è successo in questi anni, sia per quanto riguarda le leggi sul copyright, ma un po' sulle tecnologie, sullo sviluppo delle tecnologie, e cambino un po' direzione, riprendendo in mano gli obiettivi proprio dei padri della Costituzione, ovvero l'interesse pubblico nei confronti di quello privato. Questo anche perché il 7 novembre negli Stati Uniti ci saranno le elezioni per il rinnovo parziale del Parlamento e quindi c'è un certo interesse su queste tematiche. Speriamo bene. Per adesso vi saluto dagli Stati Uniti, Bernardo Parrella vi ha fatto una breve anteprima, offerto una breve anteprima degli articoli presenti sul numero di novembre 2006 di Wired Magazine. Goodbye.